do il benvenuto, grazie di essere sempre numerosi, attenti alle iniziative della Biblioteca Provinciale, che sapete è qui questo centro Trevi da qualche anno, e siamo esattamente al piano terra all'angolo con via Marconi. In questi anni abbiamo sempre ricordato la giornata della memoria, come anche quella del ricordo che sarà il 10 di febbraio, e tante altre ricorrenze attraverso iniziative e attraverso anche una bibliografia ragionata da mettere a disposizione del pubblico. Questa sera abbiamo qui un saggio di quelli che sono gli ultimi libri e soprattutto voglio ringraziare questa serata particolare la partecipazione dei nostri ospiti che vedete. Abbiamo Marisa Nastati, che è l'autrice di questa tesi di laurea dedicata appunto a Don Daniele Longhi. Abbiamo il professor Alberto Conci, che l'ha seguita. In sala c'è anche Don Paolo Renner, che è anche lui docente dell'Istituto di Scienze Religiose. Carlo Giacomozzi, dell'Archivio Storico di Bolzano, che ha aiutato, trovato e messo a disposizione tantissima documentazione preziosa che in archivio viene custodita e messa a disposizione per queste ricerche. Paolo Mazzucato, che con la sua professionalità, sensibilità e cultura riuscirà a mettere insieme un tavolo così articolato questa sera con la sua moderazione. Ho qui con me anche il nostro Guido Magheri come rappresentante, presidente dell'ANPI, che appunto ci accompagna da anni in queste ricorrenze e che saluto e ringrazio di essere qui con noi, anche perché questa iniziativa vede anche la partecipazione non solo dell'Istituto di Scienze Religiose, non solo dell'Archivio Storico di Bolzano, ma anche appunto della sezione ANPI di Lucano. E poi voglio ringraziare, salutare e invitare qui un rappresentante della delegazione di Piedemonte, che è venuta questa sera, e vedete anche il confalone qua dietro, che sono venuti ad onorare appunto un loro cittadino onorario, che è appunto Don Daniele Longhi. Le due date principali sono rappresentate qui: 1913 data di nascita, 1996 la data di morte, ma c'è anche un'altra data che è 1943, cioè l'anno in cui Don Daniele Longhi arriva a Bolzano e poi finisce anche nell'area di transito di Viareggio. Non vi racconto altro perché ho qui tantissimi relatori che sapranno raccontarvi la sua storia e inserirla in un contesto più ampio e più complicato, ma soprattutto sapranno valorizzare questa straordinaria figura che finalmente, anche grazie al lavoro di Marisa Nastati, è tornata alla luce e ce l'ha restituita. Grazie a voi e cedo la parola a Guido Magheri. Grazie alla dottoressa Trevisan per la collaborazione con la biblioteca provinciale e anche con la biblioteca civica a una lunga data, e noi vogliamo anche svilupparla. Grazie a tutte le relatrici e i relatori, in particolare ovviamente all'autrice della tesi che siamo ansiosi di ascoltare. E abbiamo accolto con particolare piacere l'invito a promuovere questa iniziativa per due motivi. Il primo è che il contributo dei cattolici alla resistenza, in particolare quella parte della resistenza che si svolge magari in maniera non armata, ma in maniera civile, intorno per esempio al lager di Bolzano, ma non solo, ma anche in tutta Italia, intorno ai fuggiaschi, intorno agli aiuti materiali, al fatto di far crescere una certa coscienza, spesso non è ricordato giustamente, invece in questi anni ci siamo fatti scrupolo di farlo emergere anche in una realtà complicata come la nostra. Tenete conto che 29 sacerdoti e 9 frati cappuccini sono stati detenuti nel lager di Bolzano, e che Don Daniele Longhi, tra le altre cose che ha ricordato Valeria, era su quel famoso trasporto che nel febbraio del 45 doveva partire per il lager e che non è partito. Li hanno tenuti per esempio dentro il vagone piombato soltanto perché la linea del Brennero era stata bombardata, quindi si è salvato e ce lo siamo salvati per questo motivo. E credo che da questo punto di vista sia una figura importante. Lo erano anche altre figure del mondo cattolico. Tenete conto che nel campo, nonostante la SS, nonostante la repressione, il Comitato di Liberazione Nazionale esisteva, aveva rapporti normale di posta col Comitato di Liberazione Nazionale a Milano, e addirittura era diviso in correnti che riuscivano, secondo i documenti che ci sono, che poi magari ci illustra meglio Carla Giacomozzi, a litigare anche tra di loro per la distribuzione dei fondi che arrivavano. Quindi erano anche discussioni materiali, non indifferenti. Quindi pensate a quale segno di vitalità c'è all'interno di questa storia. E quindi è importante, vale anche per oggi, perché sono tutte persone che a rischio della propria vita hanno saputo valorizzare i loro valori di umanità, e noi ci teniamo a far sì che questo esempio attuale sia degnamente non solo ricordato, ma anche attuato, perché è evidente che se queste cose servono. Ci sono tanti altri appuntamenti, sia con la biblioteca sia con altri, noi vi invitiamo a partecipare. Per esempio, sabato prossimo inviteremo un regista di Udine che ha prodotto un documentario sui lager italiani in Slovenia e Croazia. Faremo altre iniziative, ma soprattutto il problema di fondo è che questo ricordare, appunto, deve dare un'attuazione di quello che c'è oggi. Un'ultima cosa, mi è d'obbligo di portare i saluti alla presentazione del libro di Costantino di Sante di qualche settimana fa. C'erano tutti i parenti di Mario Longona, c'erano tutti i parenti di tutti gli altri protagonisti della resistenza dell'area. Ho citato per primi i Longona perché Don Danilo Longhi li ha sposati, e quindi ci tenevano a farvi giungere i loro saluti e il loro ringraziamento per questa iniziativa. Grazie a tutti. Allora, buonasera, è davvero per me un piacere poter raccontare un po' la storia di quest'uomo, Don Daniele Longhi, perché in questa serata in particolare è vero che le storie, si è appena celebrata la giornata della memoria, segnano in qualche modo la possibilità o meno di essere al passo con i tempi, ovvero sia rendersi conto che cosa succede oggi perché qualcosa è successo qualche anno fa. Però le storie vanno anche un po' inseguite, perché la storia di Don Daniele Longhi era conosciuto da coloro che hanno vissuto accanto a Daniele Longhi, ma non c'era nessun testo che in qualche modo lo affermasse nero su bianco. E questa era un'opera, un'operazione che ha fatto Marisa Nastati, che si è incuriosita, mi diceva poco fa, dallo sguardo di questa foto, che in qualche modo ci farà da guida in questa serata. E per inseguire e ricostruire una storia bisogna andare a caccia anche dei documenti. Carlo Giacomozzi rappresenta l'archivio del Comune di Bolzano, che ha il merito di aver deciso in qualche modo, e penso ci sia anche un anno, un giorno, non so se Carlo Giacomozzi lo ricorda, di lavorare proprio appositamente nella ricostruzione, o meglio nella conservazione, nella caccia dei documenti che potessero riraccontare la storia in particolare dell'area di Bolzano, cosa che non era facile da fare negli anni immediatamente successivi alla guerra, per le più diverse ragioni, forse anche per quella psicologica per cui non si vuole parlare subito dopo che è passata una tragedia di quella tragedia. E Don Daniele Longhi anche in questo senso è stato in qualche modo profetico. Per cui vorrei chiedere proprio a Carla Giacomozzi il ruolo dell'archivio storico di Bolzano, proprio per tenere viva la documentazione e il ricordo di questa storia che si è svolta in via Resia a Bolzano, che ha coinvolto 11.116 persone. Grazie di questo invito. Io innanzitutto porto i saluti dell'assessore Andriollo, che è molto lieto di questa collaborazione e di iniziative come questa, e porto anche il saluto della nostra direttrice della ripartizione cultura, Anna Vittorio. Per rispondere alla domanda di Paolo, sì, è giusto, e anche mi piace ricordare che nel 1995 abbiamo iniziato ponendoci una domanda, cioè in occasione del 50° anniversario della liberazione, della fine della seconda guerra mondiale, della liberazione dei lager, in Galleria Civica c'è stata una grande mostra con delle fotografie simbolo dai lager più importanti e più noti. E guardando questa mostra io mi sono chiesta, ma forse anche a Bolzano c'era un campo di concentramento nazista, non c'è un ricordo, non c'è una foto, mi sembrava una cosa un po'. Io ho fatto le scuole superiori a Bolzano, non ne abbiamo mai parlato, però da questa domanda mi è nato solo un pensiero, e da lì abbiamo iniziato a cercare informazioni. Ci siamo resi conto ben presto che le vere fonti erano, purtroppo dobbiamo dire, erano le fonti orali, cioè i testimoni, coloro che, i testimoni nel senso dei protagonisti, coloro che avevano vissuto sulla propria pelle, donne e uomini e anche ex bambine, la deportazione nel lager di Bolzano. E questo perché? Perché i documenti cartacei sono abbastanza scarsi, nel senso il nostro archivio, per quel che riguarda il nostro archivio, sono nulli. E li abbiamo invece trovati proprio coltivando il rapporto con gli ex deportati, quindi andando a intervistarli, Don Daniele a Trento, altri a Bologna, a Milano, a Roma, ovunque, è nato un rapporto personale molto, molto positivo, è nato un rapporto di fiducia e in alcuni casi, come questo fortunato di Don Daniele, è nato da parte sua la volontà, il desiderio di donare proprio all'archivio storico della città di Bolzano i documenti della sua deportazione. Come questa donazione, abbiamo avuto anche altre donazioni che sono appunto la base per la possibile effettuazione di ricerche e per il tenere vivo la memoria. Poi brevissimamente ricordo anche che nello stesso momento, parlando con i testimoni, ci siamo resi conto di dove fosse il lager a Bolzano, perché adesso sembra una cosa banale, vabbè, lo sappiamo tutti dove è passato la memoria, è reso tanto, però fino a una ventina di anni fa proprio non era una conoscenza così diffusa. E quindi un po' parlando con il notaio Pantozzi, che poi è morto subito anche nel 95, ahimè, parlando con Don Daniele, parlando con altri, soprattutto abitanti in questa zona, siamo riusciti anche a collocare il campo in quella che è il luogo che adesso tutti conosciamo, che corrisponde al civico 80 di Viareggio. E quindi subito ci siamo dati da fare con il comune, accompagnati poi su questo percorso abbastanza lungo da, ovviamente, dall'AMPI, dall'ANDE, dalla comunità ebraica di Merano. Ci siamo resi conto dell'importanza anche di conservare quello che rimaneva del luogo e quindi siamo partiti con l'imposizione del vincolo di tutela storica sul muro, quindi l'impossibilità di abbattere questo muro, e poi con la abbiamo messo delle tabelle, abbiamo cercato insomma di rendere noto questo manufatto, e coinvolgendo le scuole, quindi adesso qui mi fermo, insomma, questo per dirvi che è un lavoro di più di 20 anni che probabilmente potrebbe anche non finire mai e che mi fa molto piacere dia l'occasione per ricerche preziose come quella che presentiamo questa sera. Questo per dire che gli archivi sono importanti, non sono luoghi di memoria sedimentata, ma che riprendono vita quando, ad esempio, persone come noi sono stati la vanno a ricostruire. Non a caso Carlo Giacomozzi ha detto una cosa molto interessante in questa serata in particolare: documenti non ne avevamo, ne eravamo pochi, abbiamo parlato con le persone, perché le persone spesso sono i migliori documenti, sono documenti viventi, sono persone che portano la vivacità anche del ricordo in quello che poi raccontano e che poi si deposita e diventa anche scritto nero su bianco. Il professor Alberto Conci ha seguito Marisa Anastati nel lavoro di compilazione di questa tesi. Il professor Conci lavora, insegna all'Istituto Superiore delle Scienze Religiose di Bolzano, da Bolzano e Bressanone naturalmente, accanto all'interno dello studio teologico, e ha accolto questa storia, che è una storia di opposizione, direi, ai valori, ai disvalori del nazismo e del fascismo attraverso i valori della fede cristiana e della fede cattolica in particolare. Allora, la storia di Don Daniele Longhi è una storia sicuramente unica, ce la racconterà tra pochissimo Marisa Stati, perché lei è la protagonista di questa sera, con Daniele Longhi naturalmente, però voglio chiedere ad Alberto Conci se questo lavoro che ha fatto Don Daniele, questo atteggiamento meglio che ha avuto nei confronti della vita che gli arrivava, lui giovanissimo, arrivato giovane cappellano proprio a Bolzano, è un unicum nella storia della Chiesa? Sono tanti gli esempi come lui? Lui aveva un compagno di lotta, diciamo così, qui a Bolzano. Vorrei che ce lo collocasse nell'ambito del servizio sacerdotale, insomma, quello che ha fatto Don Daniele Longhi, di cui poi ci racconterà lei. Questo è un campo che per molti aspetti è molto studiato, è quello della resistenza cristiana in Europa ai totalitarismi, e da una parte molto studiato e dall'altra è un campo totalmente da arare. E forse il lavoro, credo che da questo punto di vista il lavoro che ha fatto appunto Marisa è stato quello di prendere una storia che è una storia per molti aspetti di, apparentemente di secondo piano, potremmo dire, no? Non così famosa come altre, e di portare alla luce quanto in realtà questa storia fosse tutt'altro che di secondo piano, se non altro perché le persone che incontrano Don Daniele, che con lui vivono, che con lui convivono nei momenti più difficili e più drammatici di quel periodo, ovviamente non potevano considerare, non hanno mai considerato questo incontro come un incontro di secondo piano per la propria esistenza. Però è vera una cosa, è vero che nella storia, se noi guardiamo la storia europea delle resistenze cristiane ai totalitarismi, ci siamo un po' abituati a focalizzare l'attenzione su alcune figure, dimenticando che il fenomeno era molto più vasto, e il perdere di vista questa vastità del fenomeno in realtà è un grave errore dal punto di vista storico, perché non ci permette nemmeno di capire quanto capillare fosse di fatto nelle parrocchie, negli ambienti associativi, eccetera, quanto capillare fosse questo tipo di resistenza, quasi come se esistesse una resistenza all'ideologia nazionalsocialista, ai fascismi europei, che è molto più grande di quello che in realtà noi di solito vediamo. Io qui vi volevo dare solo un numero, due numeri. In Germania furono circa 200 i sacerdoti cattolici che morirono nei campi di sterminio. Non è un numero grande se paragonato all'enormità delle persone che morirono, ma è un numero che è comunque molto significativo, perché ci fa vedere qualcosa che non è limitabile alla resistenza di von Galen, del vescovo chiamato Leone, no? per la sua forte presa di posizione contro Hitler fin da subito e in maniera durissima durante l'operazione T4, l'operazione Eutanasia, una posizione durissima. Allora, appunto, dare che Hitler avrebbe voluto eliminarlo, e fu Goebbels a dire no, lo faremo dopo la guerra, perché l'eliminazione di un personaggio così avrebbe causato probabilmente una ribellione all'interno del mondo cattolico che sarebbe stata assolutamente controproducente nella macchina della propaganda nazionalsocialista. Allora, quando noi pensiamo a questi 200, dobbiamo pensare quanti furono coloro che sopravvissero, come la storia di Don Daniele Longhi, quanti, cioè, se 200 morirono, quanti in realtà furono perseguitati solo in Germania dal regime nazista. Lo stesso potremmo dire dall'Austria. Nel libro che Erna Putz scrive sulla storia di Franz Eberstetter, che tutti conoscete, di questo contadino austriaco che si oppone sostanzialmente a Hitler, quando viene chiamato nel 1943, arruolato, si rifiuta di prestare il giuramento e rifiuta anche di entrare nel servizio sanitario, per questo viene ucciso nonostante avesse le sue tre bambine, tre figlie piccole. Anche lì è interessante, perché Anna Putz colloca la storia di Franz Eberstetter all'interno della storia di resistenza dei sacerdoti della Chiesa austriaca, ed è interessantissimo questo, perché il libro che aveva preceduto il testo di Erna Putz si intitolava, era un libro di un inglese, che si intitolava Il testimone solitario. Chi era Franz Eberstetter? Era un testimone solitario, cioè ne faceva un'eccezione. Erna Putz ricostruisce pazientemente quella che invece fu la resistenza che si mosse all'interno del mondo cattolico austriaco, facendo vedere quanto questa resistenza fosse in realtà molto più capillare, e quanti furono i sacerdoti che vennero internati per la loro opposizione, per la loro predicazione, per la loro fedeltà al Vangelo. Lo stesso dobbiamo dire, ci furono altre zone d'Europa dove i sacerdoti furono colpiti molto più duramente. Il mondo cristiano, cattolico e protestante fu colpito molto più duramente. In Polonia furono 3.000, più di 3.000, in realtà il numero è difficile da dire, però più di 3.000 i sacerdoti che persero la vita nei campi di sterminio per aver scelto di rimanere in molti casi a fianco degli ebrei. per aver condiviso con gli ebrei quel destino, per aver difeso, per aver ospitato, per aver nascosto gli ebrei che in Polonia vissero la persecuzione che conosciamo. E lo stesso più o meno possiamo dire dell'universo italiano, che è per molti aspetti uno dei meno studiati. Ci sono più studi sulla resistenza, sulle resistenze cristiane, sulla resistenza cristiana, per esempio in Germania, legata anche alla frattura che ci fu all'interno della Chiesa protestante, che si spaccò in due. La Chiesa protestante venne semplicemente tagliata in due dalla fedeltà al Vangelo, per cui insomma a un certo punto Hitler capì che doveva puntare sulla Chiesa protestante e riuscì a far aderire la Chiesa protestante al messaggio nazionalsocialista, tranne una piccola parte di questa Chiesa, di cui facevano parte teologi come Dietrich Bonhoeffer o come Karl Barth. Questa piccola Chiesa confessante invece fece resistenza. È molto meno studiato, e da questo punto di vista è un pregio il lavoro, veramente un grande pregio il lavoro di Marisa, è molto meno studiato quello che accade nel nostro paese, in cui però non mancarono queste figure come queste. Ci furono cioè figure che sopravvissero alla guerra, e ci furono figure come, mi viene in mente per citarne una fra i tanti, Don Antonio Seghessi, che era un assistente dell'Azione Cattolica che venne deportato e morì di stenti nel campo di concentramento di Dachau. Una bella figura di un sacerdote molto giovane attaccato all'educazione, al tema educativo, che fece questo tipo di fine, poi morì di stenti all'interno del campo di questo campo. Allora, cosa dire in definitiva? Ci troviamo di fronte, quando facciamo questo tipo di analisi, dovremmo trovarci di fronte o metterci di fronte a due, non dico imperativi, però a due almeno piste di lavoro. La prima è quella di provare a immaginare, provare a cercare, provare a ricostruire per quanto possibile, e finché è possibile, finché qualche testimone c'è ancora che può raccontare, finché ormai il tempo stringe, insomma, no? è praticamente scaduto, ma insomma finché possiamo, andare a cercare quelle che sono le forme che la Chiesa cattolica mise in atto come forme di resistenza, e che sono forme tutt'altro che banali. Non dobbiamo dimenticare che il Papa Pio XI scrisse tre encicliche contro i totalitarismi: la prima contro il fascismo, la Non abbiamo bisogno, e poi due encicliche nel 1937 contro il nazismo, la Nicht brennen der Sorge, e contro il comunismo. E quindi il panorama dei totalitarismi considerati, potremmo dire, assolutamente inconciliabili con la visione cristiana della vita. Ma la cosa interessante, e questa è la seconda pista, è quella, e su questa mi fermo, è quella di un altro tipo, un altro campo di ricerca, in cui diventano preziose queste ricerche come quelle fatte da Marisa. E cioè il campo di ricerca che ci fa vedere come in realtà ciò che caratterizzò quel tipo di resistenza al nazionalsocialismo, al fascismo in generale, ai totalitarismi più ampiamente, fu una forma di resistenza che fatichiamo a definire cattolica, luterana o via dicendo. Ci fu una sorta di ecumenismo della resistenza, al punto tale che sul tavolo del Papa di Pio XI, quando scrisse la Nicht brennen der Sorge, c'era il testo della dichiarazione di Barmen, che è una dichiarazione che la Chiesa confessante, e quindi una Chiesa luterana, scrive nel 1933. E la cosa impressionante è vedere come alcuni dei tratti della Nicht brennen der Sorge, che viene scritta in tedesco, riprendono tratti che vengono da questo documento di resistenza, chiamiamolo così, cristiana al nazionalsocialismo, che ha scritto in Germania dalla Chiesa Luterana. Questo per dire una cosa: ciò che forse caratterizza di più, ed è forse la cosa più interessante, quella su cui veramente c'è ancora molto da lavorare, e credo questa sia una siano piste che vanno proprio valorizzate, fu proprio questo, cioè il fatto che la resistenza fu una resistenza che unì, la resistenza al nazionalsocialismo fu una resistenza che unì quello che, quelli che erano i cristiani che si sentivano interpellati dalla fedeltà al Vangelo, dalla sequela, si dovrebbe dire, con Nafori, che si dovrebbe dire usando il titolo di un libro di Bonhoeffer, che è una sequela che tutti i cristiani europei che si posero il problema sentirono, ed è, e su questo chiudo, una resistenza, una sensibilità, un modo di essere che non si limitò, e anche questa è una cosa straordinaria, unicamente alle figure, diremmo, sacerdotali. Non furono i sacerdoti, non furono i vescovi, non furono i pastori da soli a fare queste forme di resistenza, ma spesso, come insegna la vicenda di Jägerstätter, di Meyer Musser, qui a Bolzano, spesso fu l'insieme della Chiesa che resistette. Ecco, io credo che lì si espresse la forma più autentica della Chiesa cristiana, la fedeltà più autentica al cristianesimo e al messaggio di Gesù, e io credo che da questo punto di vista forse il lavoro di Marisa aiuta veramente a mettere un tassello, una pietra in più per comprendere meglio questo universo di resistenze. Grazie, grazie. Grazie. Questa figura è un universo di resistenze, insomma, no? Un caso non isolato, però un caso, diciamo, non eclatante, non visibilmente diverso da tanti centinaia, forse migliaia di altri, uno dei quali però è quello di Don Daniele Longhi, e che costituisce un mosaico su cui, dice Alberto Conci, vale la pena indagare. Marisa Anastrati, partiamo da quello sguardo che la tratta in questa, sì, come incipit della ricerca, sì. E poi volevo anche dire che dietro di lei, come è citato in apertura, c'è il confronto di comune, del comune di Piedemonte. Questa è una cosa molto bella perché dà concretezza a questa storia. Spesso noi pensiamo alle storie eroiche, diciamo così, come storie astratte, invece no, hanno una radice, nascono in un paese, hanno delle frequentazioni, delle amicizie, delle parentele, e quindi è bene partire forse dallo sguardo e dal gonfalone. Buonasera, grazie a tutti. È con una certa commozione che affronto questa serata, perché mi ha veramente coinvolta nell'anima quando l'ho affrontata, osservando, credo proprio venendo catturata da quello sguardo. Io sono una nonna, porto i nipotini all'asilo in via Rovigo, l'asilo Fiaba, la scuola Manzoni, chi è del quartiere lo conosce. La targa è messa in modo che se vieni da via Dalmazia non la vedi, perché è longitudinale. Okay. Un giorno sono venuta dall'altra e ho visto questa cosa. Allora, è molto interessante. Una targa intanto due piazze, sono due, in cui nella prima c'è questa fotina, questa, no? E poi c'è una lunga descrizione dettagliata, documentata, molto ben preparata, mi ha molto colpito, infatti, e faccio i complimenti, perché poi va a dare il rimando per ulteriori informazioni, visitate il sito e così, cioè è una cosa seria. Questo fatto ha cominciato proprio a interessarmi, perché si parlava in un modo serio di un fatto che è successo, che io, che ho una certa età e sono una curiosona, non avevo mai sentito, che per me il lager era a livello quasi di racconti di quelli dell'oro, ma robe che non sono vere, e quindi mi ha molto colpito questa cosa. E appunto, essendo nonna e avendo i nipotini, essendo mi avviata su questo percorso di conoscenza che per me ha più la mia interesse più teologico, diciamo, che didattico, però nell'ambito della formazione didattica c'è una grossa parte teologica, e quindi l'ho seguito con un vero piacere e con molto entusiasmo, e mi sono laureata veramente a ottobre nel tempo canonico perfetto, proprio perché per la determinazione che mi ha mosso. Bene, allora, questo Don Longhi, ho detto, ma era vero? No. Perché sembra un attore, cioè le donne qui, sembra un attore. non sembra neanche vero, insomma, no? Però i documenti, e grazie, erano precisi. Allora ho cominciato a disturbare molte persone del quartiere chiedendo informazioni. Ma voi lo conoscete? Ma voi lo conoscete? Io sono andata a Trisacco, però quando mi sono sposata sono andata a fare la mia visitazione e lì sono rimasta per un bel tottone di anni. Poi ho fatto una piccola digressione a Ponte Gardena e adesso sono tornata nel quartiere, che così lo rivedo dopo 25 anni come è cambiato. Allora, questa targa, che chiaramente è del 2015, quindi non c'è, è una cosa nuova. Ho detto, se grazie a questi stupendi professori potrò fare una ricerca seria su questo sacerdote, ed è stato un bel lavoro. Il professore, avete sentito, si scherza poco, è un professore nero, come tutti gli altri, ma buono però. Allora, affrontare questa una biografia, no? Se dovessi parlare di me, da che parte comincerei? E io ho cominciato a pensare, questo sacerdote così giovane a Bolzano, dove l'avrei visto, dove poteva essere, chi ha conosciuto, in che ambienti si è mosso, perché era qui. Allora ho scoperto che lui era un giovanotto nato a Pedemonte, località a me, mi scuso, ecco, i pedemontesi, pedemontani, che poi avete un comune che è nato solo nel 1920, prima erano 7 contrade separate, giusto? No. Era Trentino, si parla con questo comune. Erano due comuni. Erano due comuni, felice. Vedi? Tu dici, poi viene ancora una diversa. Non si finisce mai. No, perché sono stata lì il 7 ottobre scorso, no? E a visitare un po' il paese, perché ho detto non posso concludere questa tesi senza aver visto i luoghi che hanno visto la vita di questo personaggio. E quindi sono venuta e sono rimasta veramente colpita dal contesto della Valdastico. Non so se la conoscete, la Valdastico. La Valdega è un po' più esotica, però ha le stesse caratteristiche: stretta, stretta, stretta, il torrente basso lì, e tu hai queste due montagne, corpi di montagna attraverso le quali contornanti e semitornanti vai giù, e in pochi chilometri arrivi giù a Schio. Cioè passi da 1400 metri in Fulgaria e arrivi giù a Schio. Allora, persone che abitano lì sono persone per me straordinarie, perché sono capaci di vivere con molta forza d'animo. La storia di Don Daniele Longhi quindi è questa. Nasce nel 1913, due anni prima dello scoppio della prima guerra mondiale, nel paese di, nella frazione di Longhi, giusto? Sì. Nella frazione di Longhi che si trovava nella posizione di essere esattamente sul confine, ma sul confine, di qua ci metto una gamba è Italia e di qua ci metto l'altra gamba fisica ed è Austria, ecco, da parte austriaca, austro-ungarica. Papà austro-ungarico, la mamma invece era dell'altra riva del torrente Astico, era italiana, come diceva. Queste informazioni le ho avute dal meraviglioso Monsignor Carotta, che qui voglio proprio ricordare e onorare, di Trento, che mi ha, grazie a Monsignor Viviani, un altro docente della scuola, mi ha rilasciato un'intervista bella, lunga, ampia, un signore che adesso avrà un'ottantina d'anni, forse 85 anche, cioè anche lui bisogna prenderlo in fretta, ecco. Auguriamo una veramente lunga vita, ma mille anni, ma veramente qui ha una lucidità di pensiero, di profondità, di capacità di analisi e di memoria, che mi ha raccontato proprio i fatti della vicenda della sua vita, perché in realtà lui era il nipote di Don Longhi. Allora, lui stesso, storico dell'avanguardistico. Ha scritto poi l'ho segnato in bibliografia, un grosso volume sulla storia della Val d'Astico nel tempo, da Berengario e ancora prima è citata questa località Brancafora che vede, dove vede natale il nostro Don Lodi. Allora, nascere nel 1913, sopra questo paesino, a metà della valle che strascende così la Valdega, pensati lì, così a metà, sopra è stato costruito una importante fortificazione, il Forte Schwendt, o Belvedere, come si dice in italiano. Furono gli stessi abitanti del paese a contribuire all'edificazione di questo forte di difesa. È una bellezza di fortezza, adesso è trasformata come al solito museo e quant'altro, per fortuna, perché così è accessibile. Allora, nel 1915 l'Italia entra in guerra e l'imperatore decide che le zone di confine, per preservare, non so la motivazione precisa, ma le popolazioni situate sulle zone di confine, sede di particolari fortificazioni, dovevano essere prelevate e spostate in un'altra zona dell'impero. Per gli abitanti degli altipiani di Folgaria, Luserna e Lavarone viene data la destinazione di Braunau, che è una cittadina sul fiume Inn al confine fra Austria e Germania. Quindi vive una prima deportazione, esatto. Molto prima di quello che può essere messo nel suo destino. Esatto. E questa è una cosa molto particolare nella sua vita. Ecco, allora, quando, come si diceva, la biografia di una persona contiene, è significativa, può essere presa a significato di tutto un processo, ma proposito, come è stato il nazifascismo. Madonna del Lodi si ritrova. La mamma era una levatrice, un'ostetrica, cioè una che portava vita, era l'ostetrica della valle, serviva tutte queste contrade, stava lì anche 2 o 3 giorni e i bambini si arrangiavano. C'era una capacità di resistenza che noi in città molto meno, diciamo. E quindi vengono, il papà parte soldato per l'imperatore e va. Loro vengono deportati nel giro di poche ore, nel giro di poche ore gli dicono: tanto state via 2 o 3 giorni, era giugno, portatevi via un fagottello con 2 robe, e vanno giù, con carri, vanno giù a Cagliano, li caricano sul treno, la tradotta, e vanno fuori a Braunau. Braunau è lontano, è al confine con la Germania nord-est, un po' di là. Ci restano tre anni, con tutti i problemi che ci saranno, soprattutto sul vestiario, perché quando arriva l'autunno questi hanno sempre solo la camicetta che avevano quando sono partiti e nient'altro. È un grosso, io mi sembrava una stupidaggine quasi questo aspetto, e invece in realtà è anche un po' salica la cosa, tanto temore di polmonite. Allora, Monsignor Carotta racconta di questo periodo, questo episodio. Se sono tecnologicamente avanzata, ce la faccio. Sì. Questo episodio, che viene sempre ripetuto in famiglia, quando si trovavano per un funerale, un matrimonio, quando è stato ordinato sacerdote, sempre Don Longhi, sempre è stato detto: ma ti ricordi Daniele? E del bacano in Cavalluna. Cos'era? Che quando Don Lodi, Daniele chiamavano, era nel campo a Braunau, un giorno, una sera, guardando la luna, gli ha detto il suo nonno: nonno, ma è del bacano in Cavalluna? Ciò voleva dire: è tutto di qualcuno, noi siamo miserevoli, non abbiamo niente. A me mi viene per proprietà transitiva dire: è giusto, Non so se lui l'ha detto, ma sicuramente credo che in quel momento gli sia nato il senso della giustizia. E mi fermo lì. E quindi questo episodio che per Marisa Anastati segna in qualche modo anche il modo in cui poi avrebbe interpretato il suo sacerdozio. Marisa Anastati, lo sapete, lo avete sentito, è molto documentato su ogni passaggio della vita, però dobbiamo raccontare un po' quello che è successo dopo. Quindi questo episodio che ha segnato sicuramente la sua esistenza, che è straordinariamente, effettivamente anticipa un po' quello che poi sarebbe successo, la deportazione, poi questo senso forte di giustizia lo porta poi, una volta rientrato in Italia, a frequentare il seminario e a diventare sacerdote, no? Sì. E lì c'è una destinazione in qualche modo del tutto inattesa, che ancora una volta però testimonia un idealismo in qualche modo di questo sacerdote, che sceglie forse la via più difficile, perché poteva rimanere dove si trovava, mentre invece decide in qualche modo di arrivare e di venire dove, giovanissimo. Allora, ho diventato sacerdote nel 40, fa un piccolo apprendistato nei comuni di Brancafora, Casteltesino e di Gonomaso, e dopo 3 anni l'arcivescovo gli propone questa destinazione molto moderna, molto particolare, cioè di diventare un cappellano onarmo. Il cappellano onarmo era una figura molto particolare, perché era un uomo di cultura, doveva essere un uomo di cultura con capacità intellettuali di buon ottimo livello e una capacità di saper entrare in relazione con i bisogni delle persone che aveva di fronte, in particolare quelli che i prestatori d'opera, come li chiama lui, non li chiama neanche operai, quelli che lavoravano dentro le fabbriche. La Onarmo cosa voleva dire, infatti? Prego. Onarmo vuol dire opera nazionale, assistenza religiosa, morale, operaria. E quindi lo capite che c'è un impegno molto evidente, insomma, sì. Molto sociale, no? Sì, ed è molto moderno, tant'è che è proprio lì, poi verranno istituiti dei seminari Onarmo dove si studia la sociologia. Siamo la sociologia, abbiamo i sociologhi che abbiamo Trento, è abbastanza, insomma, pare quotidiano, però all'epoca era molto molto avanti, molto ecco. Allora lui accetta, è un uomo molto intelligente, molto capace, ha fatto degli studi, aveva sempre il massimo dei voti, era speciale, insomma, per le cose. E accetta e viene a Bolzano nel 43, città con la quale non aveva alcuna relazione, no? No, quindi per lui tutto nuovo, una città di confine, una città, sì, dove ci sono le culture nel pieno della guerra. Sì, sì. Ecco, possiamo dire però che il suo paese d'origine aveva la lingua cimbra, cioè che è questo tedesco degli altipiani, insomma, no? Quindi la forma mentis, il mangiare, il vivere era abbastanza vicino, ecco, non era proprio che andava in Africa. Andava in un mondo similare. Siamo che anno? 43. Dove arriva fisicamente Don Daniele Onorio? Allora, fisicamente arriva a Bolzano e viene incardinato nella parrocchia di Oltrisacco, che non ha né parroco e non ha chiesa. Già, questo è interessante per un parroco, no? Non avere neanche un tetto sopra la testa. È una storia veramente interessante, perché è sempre una storia di frontiera, sempre più di parlare del Far West, dei primi pionieri. Lui arriva e con molta facilità entra in rapporto con il mondo della fabbrica, con gli operai. Aveva proprio un amore verso il prossimo, vero, non di etichetta, non di perché ha firmato il contratto, un amore vero che lo portava a vedere, a cogliere i bisogni delle persone e a frequentare proprio la zona industriale. Lui, certo, è il parroco della zona industriale, sì, di Oltrisacco. Sì, non è parroco, certo, perché certo. È cappellano, ma bisogna essere precisi. Abbiamo fatto sacerdoti di quelli importanti. No, lui è cappellano e questa cappellania però ha una struttura comunque a una macro struttura che a Bolzano si riduce a lui e poi al suo compagno che arriverà, che è Don Guido Pedrocchi. Allora sono loro due. Con cui fa coppia, una coppia molto forte, molto solida. Una coppia molto forte, tant'è che quando poi viene l'8 settembre succede quel che succede, e i tedeschi cominciano ad arretrare, e Fossoli, il campo di concentramento di Fossoli non è più considerato sicuro, e decidono di arretrare verso Bolzano, che nel frattempo è diventata la capitale della regione dell'Alpenvorland, non dobbiamo dimenticarlo, e sede della Gestapo, ecco. Allora decidono di spostare a Bolzano il campo di concentramento, e questi due giovanotti, trentenni, i miei figli sono più grandi, trentenni, si guardano in faccia e dicono: bisogna fare qualcosa. Decidono di rimanere, perché molti potevano anche andarsene, ma molti l'hanno fatto, fecero, non erano obbligati a rimanere, no. Ma sentono questo forte radicamento con la gente che hanno avuto modo di conoscersi in quei pochi mesi, in effetti, perché poi non era più da tantissimo. Sì, però bisogna dire una cosa, che gli operai in realtà venivano dalle varie province italiane, molti erano veneti, loro gravitavano, adesso sono trentini perché erano trentini, ma in realtà Eschio è lì a 5 km, in realtà erano semiveneti, veneti anche possiamo dire. Quindi le maestranze che sono venute a Bolzano venivano tante dal Veneto. Lo stesso Mario Longombo, che è il direttore della Magnesio, dello stabilimento Magnesio, con cui lui avrà un rapporto molto stretto di collaborazione, no? È un padovano. Quindi c'è questa comunità che si crea, proprio una, come diceva prima, i rapporti tra le persone si cambiano e si portano a un livello più alto, che non è quello della piccola bandiera personale, qui sono lì. Il bisogno di sopravvivere, il bisogno di questa grande tragedia che tutti capivano che sarebbe arrivata molto vicina, che tutti sapevano che esisteva, ma che sarebbe arrivata molto vicina, li fa reagire e li fa entrare in relazione stretta molto più velocemente che magari, scusa, vieni a mangiare con me, sì, no, forse domani, e passano 6 mesi, un anno, ora che facciamo amicizia, no? Quindi nasce una solidarietà molto forte tra Don Daniele Longhi e la comunità degli operai, e questo sin dopo l'8 settembre 43 inizia a rendere Don Daniele Longhi particolarmente sospetto, perché entra in contatto con ambienti che si oppongono decisamente al nazismo e l'opera di rastrellamento e detenzione nel lager di Bolzano delle persone, che ricordano Daniele Longhi vedeva uscire in colonne, in cortei, dice in alcuni casi, perché questi deportati nel lager di Bolzano uscivano quotidianamente ed erano distribuiti in varie zone della città per lavorare. Sì. In quei fugaci incontri si costruisce la relazione molto forte tra Daniele Longhi e gli internati del lager. Non proprio fino in fondo così, perché in realtà lui il rapporto stretto lo stringe con Mario Longoni, che è il capo del CLN di Bolzano, che è un padrone, quindi si capiscono bene. E il rapporto da una parte, diciamo, verso est va verso Padova, verso tutto il Veneto, verso tutto quel mondo che è anche un mondo di operai, e dall'altra però va verso Milano. Va verso, perché è molto importante questo legame anche con Milano, con la logora cardinale Schuster. L'arcivescovo Schuster era nato a Roma, ma era figlio di un sarto, il sarto che faceva le divise alle guardie svizzere del Papa. La moglie, Anna Tuzza, era del Renault. Vedete come le cose si legano e si uniscono? Allora il cardinale Schuster aveva una particolare personale disponibilità e apertura a seguire i suoi parrocchiani di Milano, fra cui uno, Mike Bongiorno, per dire quello famoso che tutti sapevamo, no? Ecco, di seguirli nel della deportazione, il famoso binario 21, dove c'era scritto Milano-Bolzano, arrivavano qui. Quindi il cardinale Schuster ha aiutato moltissimo, con, dice Don Longhi, mi dava grossi rotoli di bancanote da distribuire. E quello che è bello è che gliele dava in un'assoluta fiducia, perché lui gli desse a sua volta, a suo insindacabile giudizio, alle persone di cui avevano bisogno. Nessuno si è mai lamentato. Io ho conosciuto tante persone anziane e quando dicevo Don Longhi, uno sorridevano, e la voce del cuore, quella passa tutti i ragionamenti, uno sorridevano e due, ah sì, era bravo. Ecco. Allora, questo discorso qui del lavoro coatto e del suo interagire con gli internati, è vero che è così. Lui aveva, per chi abita in via Torino, poi è andato a abitare in via Torino 13, numero interno 9. Lui aveva, e poco più giù al 56, c'era un piccolo asiletto con delle suore sempre vicentine. Allora le suore avevano la radio, ascoltavano Radio Londra, di nascosto le suore, ma ve le immaginate le suore che fanno le resistenti? Eppure, come diceva, questo è stato. Allora loro passavano in fila, andavano alla Galleria del Virgolo a fare la rettifica, no? A fare i buloni, la purificazione, no? I cuscinetti a sfera, e loro, le suore, gli dicevano le parole d'ordine che si avevano sentito a Radio Londra, capite? Insomma, io trovo questo meraviglioso, quanto l'uomo può essere grande. Con niente, no? Con pochi mezzi, non serve mica avere le miliardate, le cose, quando si vuole veramente essere uomini nel senso vero della parola e donne. E Don Daniele Longhi in quest'opera, appunto, di collegamento con il futuro CLM, insomma, no? E in particolare con Mario Nogoni, con le persone che poi vedeva sfilare, diventa a sua volta sospetto. Tant'è che Daniele Longhi stesso, prima di essere internato definitivamente, viene arrestato non una, ma due volte, e ciò nonostante, forse per la giovinezza, dice in alcune sue dichiarazioni, ma sicuramente per la fede morale che lo animava, decide comunque di restare, di non mollare il fronte. Ci racconta questi due episodi, questi prima i due, il doppio arresto e poi quello che diventa più importante. Allora, il doppio arresto non lo conosco molto bene, dico chiaro. Lui, io ho qui l'intervista del signor dottoressa Giacomozzi, con documentata, eccola qua. Ecco, e qui dichiara queste cose, ma più a fondo non sono potuta andare, non sono riuscita, non ce l'ho fatta. Però lui dice: sono stato interrogato, arrestato due volte, interrogato. Essere interrogati voleva dire andare nel corpo d'armata, sede della Gestapo, nei sotterranei, ed essere torturato. Non era una passeggiata di salute. Quindi uno che insisteva nel suo atteggiamento doveva avere una motivazione straordinaria. O lo trovi nella fede, o non so anche cos'altro lo puoi trovare nel rapporto umano. Ma dopo gli diventa già più difficile. E per lui era senz'altro la fede, quello che lo ha sostenuto. Bene, allora, invece l'arresto del 19 dicembre del 44 è quello che lo porta a essere internato. Lì hanno le prove e lì viene internato. Matricola 74-59, triangolo rosso, vuol dire prigioniero politico, e quello è anche che c'era una moneta interna al campo, insomma. Però questi sono i suoi due segni distintivi. Allora io dico, questo sacerdote, che queste cose sono successe nel 43-44, questo specifico, e che le conserva fino a donarle poi all'archivio, le conserva perché poi viene spostato a Roma, poi va a Piedemonte e così, però lui decide di lasciarle a Bolzano, all'archivio storico di Bolzano. Vuol dire che il legame, l'esperienza bolzanina, insomma, è stata talmente forte e formativa che gli ha fatto riportare, come dire, come il salmone che torna all'origine, ma non so come mi spiego, forse un po' troppo in termini non scientifici, però questo è successo. E peraltro il 19 dicembre che cita Marisa Nastati è importante da dire, perché Don Daniele Longhi è stato anche colui che ha poi fatto modificare la data di morte di Manlio Longhon, sì, che fu ucciso 10 giorni dopo l'arresto di Daniele Longhi, nella notte tra il 31 e l'1, 31 dicembre e 1 gennaio 1945, sì, nel corpo d'armata, prelevato proprio dal campo di concentramento di Bolzano. Sì, sì, è così. Cioè, un coraggio da leone che non era neanche tanto alto di statura e neanche grosso. Invece sono grande e grosso, temendo. No, e c'è da riflettere, sono veramente sulla forza morale. Se è vero che esiste la forza morale, esiste, sembra oggi quasi che non esista quasi più, no? La morale è un'opzione da ciotte, la gente che se la racconta, no? Tante volte, però la vita di Don Daniele Longhi nel lager di Bolzano è segnata naturalmente dalle violenze. Lui stesso finì nel famoso blocco celle, famigerato blocco celle, lui sopravvisse, a differenza di moltissimi altri che invece non ce la fecero, e in particolare lui ricorda una messa che non poté mai celebrare, ma che viene celebrata in una Pasqua. Pensate anche all'assurdità della situazione, con un sacerdote che nel campo, in pubblico, celebra una messa nella quale Don Daniele Longhi sente la frase per la quale il sacrificio fatto da Cristo in qualche modo sembrava inutile ma poi sarebbe servito, e questa frase ascoltata dentro le celle da Don Daniele Longhi in qualche modo lo rafforza ancora di più nella sua convinzione, peraltro destinato com'era ad una fucilazione che poi non avvenne. Sì, il 28 dicembre sarebbe stato, è la data della sua fucilazione. Per noi cattolici è il 28 dicembre, sono i santi innocenti, è una data significativa. Oggi ricordo che la memoria di San Tommaso d'Aquino. Bene, che onore a quelli d'onori. Sì, lui doveva essere fucilato e non fu fucilato. Ovviamente questi scherzetti, diciamo, no? Facevano questi scherzetti. Vorrei, il sacerdote era il vescovo di Belluno, il vescovo Bordignone, sì. Ai sacerdoti non era permesso di celebrare messa. Questo fu un grande dolore per Don Longhi, ma tutti lo riconoscevano come prete, e quando c'era quando fu finalmente tra virgolette caricato sul vagone per andare destinazione campo di sterminio, nel vagone le persone si cominciavano a dire: ma qui c'è un prete, ma guardate che c'è un prete, ma qui c'è un prete, ma qui c'è un prete, ci sono io, vi benedico. Cioè, sempre sempre vero, sempre vero. Con la semplicità del miletto, c'è un episodio su quel vagone, dove peraltro oggi è stato anche posto un lungo quei binari, insomma, no? Un momento che ricorda che dalla zona industriale partivano proprio i vagoni per andare, sì, ai campi di concentramento. Ricordo un episodio di sterminio, Don Daniele Longhi, ricordo un episodio di un anziano che era su quel vagone, che sentita questa benedizione prese un suo sacchetto, un suo sasso, sì, e cosa fece? Aveva portato con sé un po' di pane, no? Di nascosto, se lo teneva nascosto sotto la giacchetta, non so dove, nelle mutande. Ma quando successe questo fatto lo tirò fuori e lo spezzò, e così viene fatta praticamente la comunione a tutti, lo diede a tutti, lo benedisse, Don Longhi, e ognuno ricevette la sua comunione. Perché non partì quel treno? Il treno partì in un anno, credo. Però arrivarono i bombardamenti degli alleati, arrivò quasi a Brennero, si sa che si arriva a 1003, quindi si va a una marcia abbastanza lenta, bombardarono la linea e il treno fu costretto a tornare indietro. Cioè, se sbagliavano un pelo, prendevano il treno e stecchivano. Non l'hanno preso e quindi è tornato indietro. E Don Daniele Longhi ricorda la passeggiata di rientro, no? Una volta ritornata a Bolzano verso il lager dove poi furono riportati. Certo. Non lo ricordo molto bene. E la ricorda di un momento molto particolare di questo tragitto, no? Certo. Che lui conosceva benissimo, dice anche che avrei potuto scappare e nascondermi nella zona industriale, è così bene conoscevo. È vero. Invece non è vero. Invece. È vero. E continua a condividere il destino. Anche perché la rete di resistenza interno del campo erano delle persone abili, avevano organizzato molte fughe. E c'è nel libro del popolo numerato della Fondazione Museo Storico di Trento, è bellissimo, è un bellissimo libro, in copertina, prima pagina, in terza di copertina, no, in copertina e in prima, c'è la piantina, lo schema di fuga di, con i tempi e tutta la modalità di fuga dal campo. Cioè erano organizzatissimi. E tante fughe sono avvenute, anche coperte da Bologna, chiaramente. Allora, io volevo dire, se posso dire una cosa, che mi preme dirla questa. Nella Mascagni, la moglie del quello che poi disse, non erano ancora sposati, non si erano ancora conosciuti. Nella, però, viene ormai ricordata come la moglie di Mascagni, il senatore della Repubblica Italiana. Nella Mascagni, internata nell'AIER, lascia testimonianza all'ANI, Associazione Nazionale Esuli Deportati, sul comportamento di Don Longhi nel campo, sempre il trentenne. Don Daniele Longhi, sereno al punto da saper pronunciare un pacato e rassicurante discorso da buon pastore, il giorno in cui ci fecero ammassare dinanzi al blocco con le mitragliatrici puntate e noi aspettavamo senza più connettere il momento fatale. Ecco, e questa è la signora Nella Mascagni, che poi nel tempo sono relazioni che dureranno per sempre, perché andranno sempre a trovare Don Longhi e si rincontreranno di nuovo a Bolzano, a Roma e poi a Trento. Quando poi il campo di due Kanzlager di Bolzano, che poi è anche stato un campo in cui sono avvenute naturalmente purtroppo delle morti violente ovviamente, cessò di funzionare e quindi dopo la liberazione, Don Daniele Longhi ha testimonianza del ruolo anche sociale che aveva saputo ricoprire in quegli anni, viene subito riconosciuto dalla comunità e dal Comitato di Liberazione come una figura chiave, diventa una sorta di assessore alle politiche sociali, possiamo dire così, immediatamente dopo la liberazione, diventa punto di riferimento per coloro che dovevano poi ricostruire un tessuto sociale. Don Longhi, in campo di internamento, aveva come compagno di prigionia. Il dottor Luciano Bonicini, farmacista, tra gli altri, anche lui. Ecco, alla liberazione avvenuta, il dottor Luciano Bonicini viene chiamato ad essere il primo sindaco dagli alleati, cioè non votato dal popolo, c'era niente, viene chiamato a diventare il primo sindaco della città di Bolzano, dottor Luciano Bonicini. Lui, che aveva conosciuto Don Longhi veramente nel momento della tragedia e come le sue capacità e come la sua moralità, lo chiama ad essere veramente assessore all'assistenza e all'istruzione. Lui diventa assessore, solo che queste documentazioni le avevano chiesto, il dottoressa si ricorda, mi ha detto non le abbiamo trovate e non abbiamo potuto scrivere sulla targa che era stato Per cui insomma conferma il suo ruolo di grande catalizzatore sociale, no? Di costruttore di comunità. Sì. E lì vediamo una foto in particolare, no? Testimonianza del fatto che la visione in qualche modo di quest'uomo non indugiava al passato, e che è anche una cosa abbastanza controversa, lo potremmo chiedere anche a Carla Giacomozzi, ma quei luoghi che sono stati luoghi di deportazione e di sofferenza, nel giro di pochissimo vengono in qualche modo convertiti, diventano tutt'altro, da luoghi di morte diventano luoghi di vita. Ci commenta questa foto? Allora, questa foto mi piace veramente, ma veramente tanto, perché questo uomo, questo giovane uomo, sacerdote, che ha vissuto tutte le sevizie sul suo corpo e che ha visto fare agli altri, ha visto trucidare persone, donne, in tutti i modi bestiali, ecco, lui resta integro nella sua anima, tanto da poter entrare di nuovo in quel, subito, un giorno dopo, in quel campo e dire agli alati: per piacere, mi date le baracche di mattoni, grazie, che erano quelle del corpo di guardia delle guardie, appunto, loro stavano le baracche di mattoni, se le fa dare, gliele concedono e lui le trasforma nella colonia e le belle. La colonia elioterapica, che è una parola non si dice più, la colonia, insomma, elioterapica però, cioè che la terapia del sole, dopo anni di tragedia, di buio, la terapia del sole per i bambini e le bambine del quartiere o della città. Io ho conosciuto molte persone, una c'è anche qui, che mi hanno raccontato ancora quanto era bella quella colonia. Ecco, allora la mia riflessione, scusatemi, mi sembra di dire che è come se la presenza di quei bambini con la loro innocenza abbia benedetto e trasformato quel luogo di dolore in nuova vita per tutti e per tutto il quartiere. E qui farei un applauso. Oggettivamente spiazzante, cioè di fronte a una cosa così si potrebbe anche reagire in modo diverso. Ma certo, lo chiederei anche a Carla Giacomozzi, perché si è discusso molto, no, sul fatto che poi il lager di Bolzano fosse stato dimenticato, no? E che fosse diventato così in fretta un luogo di vita, no? E di comunità. E questo, a partire dal gesto di Andrea Longhi, ha un forte significato, però. Ma sicuramente il dinamismo di Don Daniele è stato straordinario, perché ci sono anche delle corrispondenze tra lui e l'amministrazione militare, che viene preso per le orecchie dal generale, che non ricordo più il nome, che gli dice: ma lei sul demanio militare ha osato costruire un asilo? E lui dice: e io zitto. Ma lei sul terreno del demanio militare ha osato costruire un edificio? E io zitto. Fortissimo. Però c'erano anche altre opinioni appunto su che cosa fare di questo terreno. Io mi ricordo per esempio quando abbiamo intervistato anche Don Guido Pedrotti, che appunto abbiamo nominato perché la sua vita ha intersecato quella di Don Daniele come altre vite importantissime che stasera non abbiamo occasione di citare. Don Guido Pedrotti diceva per esempio che secondo lui quel luogo si sarebbe dovuto trasformare in un prato dove le mamme avrebbero potuto portare a passeggio i loro bambini, di modo da, così, insomma, togliere tutto quello che poteva essere il ricordo negativo di quel luogo e rinverdire proprio la memoria di quel luogo. Questa è un'opinione, insomma. Però Daniele è stato più veloce, pratico. A parte che Don Pedrotti è stato anche deportato ulteriormente a Mauthausen e poi a Dachau, quindi, insomma, poi è ritornato dopo mesi perché aveva assistito anche i moribondi di Dachau, di Allah, quindi insomma la vicenda di Don Pedrotti è ancora più complessa. Però per dire, insomma, non era univoca l'idea di cosa fare di quel luogo, ma il dinamismo e l'intelligenza e la prontezza, insomma, di Don Daniele hanno capito che era da sfruttare il momento, il luogo, e così ha fatto. E non andava contro la memoria, perché Don Daniele Longhi è stato il primo a ricordare che quei luoghi sono stati luoghi di concentramento e anche di sterminio, perché la prima lapide ufficiale posata a Bolzano è stato un lavoro suo. Allora, intanto avete visto Don Longhi in basso, vero? Ciao. Ecco, eccolo qui. Allora, Don Longhi nel decennale della liberazione dall'Ader fa erigere, io credo a sue spese, ecco, questa edicola. La fa erigere all'imbocco del lager, dove era la sbarra, e viene posata lì, e viene sistemata lì. Allora, è dedicata alla Madonna, regina dei martiri. Sì, si vede abbastanza. È bellissimo anche questo gesto di queste rose. Non ci sono cuori, sono rose. Rose erano spine. Quindi il bello col dolore, no? È molto simbolica. E lui era collegato anche con una cerchia, il pittore Vittone, non so, del lago di Garda, aveva una cerchia di intellettuale attorno, ecco, che probabilmente hanno fatto il bozzetto di questo lavoro. Ma il testo è suo, l'ho trovato al Museo Storico di Trento. veramente la, infatti l'ho scritto, firmato, e dice: primo maggio 55, decennale della liberazione, sopportammo l'odio e l'ingiustizia affinché l'umanità serenamente vivesse nell'amore e nella giustizia. E questi sono i suoi temi: la giustizia, l'amore, e non c'è odio in lui, non c'è fastidio, non c'è neanche la puntolina di dire: guardate quanto abbiamo dovuto patire noi dentro lì, gli 11.116 matricole del campo di concentramento, che poi le matricole sono 11.116, ma in realtà gli internati sono stati di più, circa 15.000, perché gli ebrei non erano numerati, certe donne non erano numerate, certo tipo di classificato non interessante da numerare, lo fanno pensare che si citano 4.000 persone. Ecco, lui viene apposta a Bazzano, fa inaugura, insomma, questa edicola, che era una storia anche un po' complessa. Qui c'è il parroco di San Pio X, adesso il condominio, poi nella via Resi 80, dove c'è il lager, è stato costruito una serie di case popolari, i Pesipea, non so come si chiamava all'epoca, che si sono costituite in condominio di Resi 80. Il condominio a un certo punto ha detto: sapete che c'è, quell'edicola ci dà un po' sta in mezzo, perché non la prendete voi chiesa, che alla fine è un fatto religioso, così. E è stato, e la chiesa l'ha accolto volentieri e l'ha messo sul sagrato della sua chiesa. Dopodiché recentemente, ma me l'ha documentato tutto, recentemente il condominio la rivolgeva indietro. Beh, da un certo punto di vista vuol dire che anche il lavoro di memoria che è stato fatto, che fa la sua tesi, che fa l'archivio storico di Bolzano, funziona alla fine, perché quello che voleva essere rimosso in realtà vuole essere rimesso al centro, no? Sì. E caro Giacomo, questa è forse nel 55 la prima volta che c'è una testimonianza dopo 10 anni con un numero, quindi un dato, qualcosa con cui confrontarsi, che parla dell'area di Bolzano. E infatti è un monumento molto chiaro, non si può non capire a che cosa si riferisca, contrariamente ai monumenti che sono arrivati dopo. Vi invito a pensare per esempio al monumento di Trevi, che è davanti alla chiesa. Sì, io per uno che conosco la storia del lager, il contatto è, no, si capisce subito, però in realtà per chi passa a quel monumento, sì, esprime dolore, ma non si collega esattamente alla storia del lager, mentre questo monumento parla molto chiaro. Questa è una cosa meravigliosa, perché si capisce che cosa e a chi si riferisca. E il tema della memoria di questi fatti tremendi, per Don Daniele è un tema importantissimo. Io nel 2011 ho scritto un libro sull'eccidio che è stato compiuto alla ex caserma Mignone nel settembre del 44, partendo proprio, uno dei due documenti, pochissimi documenti che c'erano, uno dei due è un discorso che Don Daniele pronuncia alla radio Eia di Bolzano l'11 settembre del 45. Per fortuna c'è la minuta di questo discorso, e Don Daniele parla di questi 23 che sono stati uccisi, dice le poche notizie che si sanno di loro, lui tiene viva la memoria. Sappiamo che lui stesso, per esempio, che celebra il funerale di Gian Antonio Manci, con il quale pure era stato in contatto nel periodo della clandestinità, nel periodo del nazismo. È lui che tiene viva la memoria del 3 maggio, perché lui dice che è lui che tiene battesimo, diciamo, un altro monumento all'interno della lancia che ricorda i caduti, alcuni dei caduti del 3 maggio. E ricordiamo chi sono questi caduti del 3 maggio, cosa era successo? Il 3 maggio è una situazione. Dunque, il 3 maggio è un giorno particolare per la città di Bolzano, il 3 maggio del 45, innanzitutto, ho dimenticato di dire l'anno, il 45. Succedono degli scontri ancora non sono ben chiariti da quale parte inizino gli scontri, comunque ci sono scontri tra delle forze resistenti armate e l'esercito tedesco in fuga, che chiaramente reagisce e provoca dei morti. Ecco, però le dinamiche e i luoghi non sono ancora ben chiari, il comune adesso sta affidando la ricerca a due storici, speriamo a breve di avere una reazione su questi fatti. Ma Don Daniele non chi c'è? Ricorda anche quel fatto. Don Daniele ricorda anche questo fatto, infatti. Don Daniele è proprio l'animatore della memoria della città di Bolzano di questi tragici attacchi del nazismo. Fin quando rimane fino al 52 Bolzano, fino al 52 si celebrano anche le commemorazioni il 12 settembre in memoria dell'eccidio, finché lui rimane qui. Volevo chiedere una cosa dal professor Conci, perché Marisa Nastati ha detto una cosa importante rispetto a questa scritta di suo pugno da mettere sulla lapide: non c'è odio in lui, non c'è rancore, non c'è fastidio, ha detto Marisa Nastati, no? Nel ricordare quello che lui stesso ha sofferto, perché non l'abbiamo detto, ma anche Don Daniele Longhi è stato picchiato, torturato, ha subito malversazione, trattamenti di vario tipo dentro il lager e nelle celle. E il giorno dopo la sua uscita ha costruito una colonia bioterapica. Abbiamo detto, non era un modo per cancellare la memoria, ma per farla ripartire in qualche modo. Ecco, vorrei che ci commentasse questo tipo di atteggiamento anche rispetto all'uso che spesso si fa della memoria, no? Al di fuori di determinati ambiti. La questione è una fondamentale, in realtà è una questione che interessa tantissimo il periodo che va più o meno già dal 42-43 in poi. E il grosso snodo, quando ci si rende conto di quella che è la deriva del nazionalsocialismo, e in questo caso del nazionalsocialismo, ma nel nostro caso del fascismo, potremmo dire la deriva ideologica, che è una deriva di morte. Il problema che nasce è quello di immaginare come, su quali basi costruire la vita dopo. E questo avviene in luoghi che sono molto diversi. Forse il luogo nel quale che noi ricordiamo di più è Ventotene, dove si immagina addirittura, no? Si comincia a immaginare nel cuore della guerra come si sarebbe dovuta costruire quel manifesto di Ventotene, la quale avrebbe dovuta essere un sogno di un'Europa unita e non più insanguinata, come era quella che aveva sperimentato la generazione che era lì, che aveva sperimentato le due guerre mondiali. E quindi in realtà non è quello di Don Daniele, non è, potremmo dire, un atteggiamento isolato. È più onesto se noi diciamo Don Daniele è testimone, e questo sì, è testimone di quello che fu l'atteggiamento più autentico nella volontà della ricostruzione. Cioè, il problema non è non fare memoria, il problema è che cosa voglio farne della memoria. Questo è il vero snodo della questione, cioè che cosa ne faccio della memoria. Il male subito è incancellabile, la storia è irreversibile, dice Hannah Arendt, non esiste una reversibilità della storia, e chi ha subito il male, quel male non è che lo può cancellare. Il problema è, e quindi anche tante riflessioni che noi facciamo in maniera assolutamente approssimativa e grossolana sul perdono come dimensione di cancellazione di qualcosa, non ha nessun senso, perché il male subito è un male che risulta per la persona che lo subisce di fatto incancellabile. Non possiamo pensare che quello che ha visto e subito Don Daniele Longhi sia cancellato. La cicatrice di quel male rimane nella vita di Don Daniele, e tutti coloro che sopravvivono, rimane incancellabile, tormenta il sonno di queste persone, i tormenti che spesso non vengono nemmeno comunicati, però li tormenterà per tutta la vita. Ma allora che cosa fare della memoria? Allora che cosa fare di quando, il giorno dopo, potremmo dire, che cosa ne faccio della memoria il giorno dopo? Non si tratta tanto di ricominciare con una cancellazione di quello che è passato, ma potremmo dire di riconvertire. È talmente pericoloso, tra virgolette, questo processo, che ad esempio il processo che subirono dal giudice chiamato il sanguinario, Freisler, uno dei giudici più sanguinari, letteralmente, probabilmente il più sanguinario della Germania nazista, il processo che subirono il conte von Moltke e il circolo di Kreisau fu un processo nel quale loro vennero condannati a morte, padre Welp per aver partecipato alla congiura contro Hitler, cosa che non aveva fatto, cosa di cui non era responsabile, ma gli altri, come conte von Moltke, vennero condannati per aver immaginato una Germania dopo la guerra senza Hitler. Cioè, perché ti condanno? Ti condanno perché tu osi pensare dopo la morte la vita, dopo la tenebra la luce, dopo la negazione del diritto, il ristabilimento del diritto. Un'ultima cosa, è molto interessante che in quel periodo il tema grosso del diritto si conciliasse con una parola che noi solitamente consideriamo staccata dal diritto, che è la parola amore. Paul Ricoeur scrisse alcuni anni fa, questo filosofo francese, scrisse un piccolo libro intitolato Amore e giustizia. E questo libro si divideva in due parti: la prima parte era la prosa della giustizia, la seconda parte la poesia dell'amore. La prosa della giustizia e la poesia dell'amore come due caratteristiche della convivenza umana. Questo però ci dà una sorta di scissione fra il diritto e la giustizia, che deve rispettare, potremmo dire, la prosa, quindi il rigore razionale per la nostra convivenza, e la poesia dell'amore, che spacca un po' le regole. Durante la Seconda Guerra Mondiale ci furono delle lettere, io ne ho trovate alcune, dopo in realtà probabilmente il dibattito è proprio un tema sul quale bisognerebbe lavorare molto molto di più, cercare molto di più, in cui ad esempio me ne viene in mente una di Gerhard Leibowitz, che era un giurista di origine ebraica che era fuggito a Londra, il quale in una corrispondenza con Bonhoeffer gli scrive: ma qual è la funzione, nel pieno della negazione del diritto che c'è all'interno di un'Europa, diciamo, totalitaria, dice, qual è la funzione del diritto? Qual è la funzione? A cosa serve il diritto se dobbiamo pensare a domani, non a oggi, tutto proiettato a domani? La funzione del diritto è quella di rendere possibile le condizioni dell'amore. È interessantissimo far sì che le persone si possano amare di nuovo. Da questo punto di vista, il gesto di Don Longhi di prendersi queste cose, di dire vabbè, mettiamoci dentro dei bambini, di prendere dei luoghi di morte, di consegnarli al futuro, diranno, di farli diventare, è un gesto profetico per molti aspetti, ma è anche un gesto che si inserisce in questo senso, si inserisce come gesto di ricordare, appunto, con questa lapide 10 anni dopo, in un processo nel quale c'è veramente la sostituzione della morte con la vita, e quindi non tanto la memoria come dimensione di rancore, non c'è rancore, non si ricostruisce nulla sul rancore, non tanto la memoria come dimensione unicamente del ritornare alla sofferenza, ma la memoria come una sorta di trampolino che mi spinge ad andare oltre, a costruire qualcosa oltre. Il mai più per queste persone è assolutamente concreto. Che cosa vuol dire mai più? Mai più vuol dire che quello che ho sperimentato deve essere mai più, quello che abbiamo sperimentato come comunità umana deve essere mai più. E quindi da questo punto di vista è veramente una trasformazione anche della funzione della memoria, cosa molto difficile da fare oggi, perché oggi mai più è difficile da far capire, per esempio, ai ragazzi. Allora ed è molto più difficile quindi costruire, rinforzare una visione della memoria come questa, che è una memoria che è talmente viva sulla negatività, sul male subito, che il mai più proietta tutto verso la costruzione di qualcosa di nuovo, di diverso. Allora, la storia di Don Daniele Longhi è una storia che, anche questo è interessante, l'unica stati a Bolzano è durata poco alla fine, no? È durata 8 anni, dal 43 al 51, eppure ha lasciato una traccia così profonda, no? Nella comunità di Bolzano, e non soltanto di Bolzano. Fino alla fine, in qualche modo, questo spirito di costruzione, pur nelle situazioni più disperate, Daniele Longhi l'ha conservato. L'ultima fotografia che ci fa vedere Marisa Nastati. Sì. Da Bolzano viene mandato all'Armo Nazionale per queste capacità organizzative, intellettuali, così, e lo mandano a Roma. A Roma ci sta 25 anni, non poco. Ma quando conclude il suo servizio, dice il Monsignor Carotta, lui chiede ed ottiene di poter tornare a Pedemonte, nella sua parrocchia. Ma Pedemonte nel frattempo è diventata appartenente alla diocesi di Vicenza, non più di Trento. E allora, non so qual è l'organo che decide, trovano la formula di delegato vescovile, e con questa formula lui può a tornare a Piedemonte come parroco. Lì, vi ricordate, dicevo, della residenza tra quelli che riscuotevano le tasse per l'imperatore? Lui si fa assegnare questa residenza, questo palazzotto, e lo trasforma nella casa di riposo per gli anziani della valle. Cioè, i soldi che avevano tirato su di tasse ritornano a quel popolo come servizio per accompagnare un'età in cui si è tanto lavorato e c'è bisogno di riposo. Ecco, qui si vede Don Rumi, primo a sinistra, là, quello là, il primo a sinistra, quando sta trasformando questa casa. Di fronte a quel quadro nero è il vescovo di Vicenza, e poi lo si vede con gli ospiti. Vedete, è una casa come si faceva negli anni 80, con le piastrelle bianche e rosse, non si possono vedere al giorno d'oggi, no? Ecco, eppure guarda che faccia che hanno tutti contenti, guarda più le vecchiotte, è meraviglioso vedere che cosa è stato capace di fare con niente, senza soldi, ecco. Con l'aiuto del fratello, che però era frate cappuccino, Fra Giustino, che anche è stato un personaggio straordinario. Lui è stato cappellano presso i lavoratori in Svizzera, ed è anche molto ricordato in paese, giusto? Sì. Ecco. E poi nell'ultima figura, pardon, si vede, adesso è stato tutto, vi ricordate, era là tutti alberi, due casette, no? Ecco, è la stessa scena, solo che c'è tutto un cimitero molto costruito, molto moderno, molto ricco, anche in primo piano, e sullo sfondo la chiesa, vedete quel piccolino che viene su, il campanile della chiesa, quindi risulta essere più rimpicciolita, ma in realtà è tutta lei, è molto bella anche, e dietro c'è questo famoso palazzotto che è diventato di 3 volte più grande, e è l'attuale casa di riposo. Per cui il suo lavoro è ancora vivo. L'ultima domanda la facciamo a Marisa Nastati, perché è passata tempo fa davanti a quella sì. saga, sì. che l'ha incuriosita, sì. ci ha lavorato su qualche tempo per sì. ottenere questa tesi, due anni. E dopo questi 2 anni di ricerca, per Marisa Nastati chi è Don Daniele Rodi? È un compagno, un amico, una persona che vuol far conoscere ai suoi amici? Cosa rappresenta per lei Don Daniele Rodi? È un modello di vita, un compagno di strada per me personalmente, da far conoscere, ma proprio nella sua umanità di uomo, come sacerdote naturalmente, ma la coerenza dell'uomo, perché mica tutti siamo sacerdoti e tutte le donne, eppure la forza d'animo, Franca Tuda, quando è morto Mario Longoni, è stata lei a portare avanti la rete di resistenza a Bolzano, non hanno perso un colpo, una donna, ecco. Allora, quella forza d'animo che ha rappresentato questo sacerdote, Don Daniele Rumi, per me è da conoscere, soprattutto dare e trasmettere e farne partecipi ai giovani, ai bambini. Allora, io sono in una formazione di ambito didattico, quindi ho fatto questa tesi apposta perché sia uno strumento anche, sia messa a disposizione della didattica per poterci fare dei lavori. Ecco, per me Don Rumi è una persona così straordinaria nell'ordinario. Grazie molto.